I'm Patricia Nanlop Denjuma. I'm 24 years old. We've been living in Nasarawa Gomjos. I'm the first daughter of the family. Mi chiamo Patricia, ho 24 anni. Sono nata e vivo da sempre qui a Jos, nel quartiere di Nasarawa. Ho due sorelle e un fratello più piccolo. Mio padre ha sempre fatto il camionista. Mia madre era casalinga. Abitiamo nella zona musulmana, proprio accanto al grande mercato del legname. Quel giorno, era il 28 novembre, mio padre è uscito presto, come faceva sempre per andare a prendere il camion al deposito della compagnia. Quando ha lasciato casa, nessuno di noi sapeva che in città c'erano già stati degli scontri. Solo più tardi abbiamo sentito gli spari e le grida, e allora abbiamo avuto paura. Verso mezzogiorno ho cercato papà sul suo cellulare. Suonava, ma non ha risposto. La mamma ha insistito per tutto il pomeriggio, ma il telefono continuava a suonare a vuoto. Più tardi, erano passate le 4 del pomeriggio, mentre continuavamo a provare, qualcuno ha risposto. Era un uomo, una voce sconosciuta. Ha urlato a mia madre di smetterla di chiamare quel numero, l'ha insultata e le ha detto che nessuno avrebbe più risposto e ha interrotto la comunicazione. We keep on trying the number will be ringing, nobody will pick. Number will be ringing, nobody picks the call. Patricia tiene lo sguardo basso, si sfrega le mani con un movimento costante, quasi che quella giornata fosse una polvere di cui liberarsi. Indossa un paio di jeans e una camicia color verde Nigeria, i sandali ai piedi, a tracolla una borsa di plastica trasparente piena di piccoli oggetti. There is one of his friend, a Muslim. So my mom called him and tra gli amici di mio padre c'è un camionista musulmano, un praticante che frequenta regolarmente la moschea. La mattina del 29 novembre mia madre l'ha cercato e gli ha chiesto di cercare informazioni nella comunità. Gli scontri continuavano. Per due donne cristiane in un quartiere musulmano in rivolta era diventato impossibile uscire. Abbiamo chiesto aiuto, ma nessuno ha potuto fare niente per quasi due giorni. Poi è intervenuto l'esercito ed è tornata la calma. Allora siamo uscite e abbiamo chiesto informazioni dappertutto e poi abbiamo fatto il giro di tutti gli ospedali della città. Ma non è servito a nulla. Papà era come sparito. Non abbiamo mai saputo nulla delle sue ultime ore e non abbiamo mai ritrovato il suo corpo. Ho avuto la sensazione che la mia vita fosse finita. Eravamo sole e non sapevamo che fare. Io avevo paura di tutti e volevo solo andare via dal quartiere. Nelle settimane successive ero costretta a uscire per occuparmi dei miei fratelli e così mi sono resa conto che i vicini non erano ostili e anzi cercavano di essere gentili. È chiaro che con la morte di mio padre, alcuni devono aver pensato che almeno per la nostra famiglia la guerra fosse finita. Mia madre ora ha aperto un piccolo commercio. I miei fratelli hanno ripreso la scuola. Alcuni vecchi compagni hanno cercato di avvicinarmi per parlare di quanto è accaduto, ma sono musulmani e io li tengo a distanza. Non voglio avere niente a che fare con loro. I musulmani hanno ucciso mio padre. Lo so bene che sono esseri umani, proprio come me. Eppure, dopo quello che è accaduto, io non penso che siamo proprio uguali. They are human beings like me, but after this incident, I've been having this belief that we are not the same with them.